Storie, storielle, storiacce. In un documento scritto a computer con la dicitura top secret firmata dall'assistente del ministro dell'interno egiziano, riuscì a leggere che si provvedeva al mio rilascio con la condizione di non parlare sia del rapimento in Italia che del carcere e delle torture in Egitto, per non mettere in imbarazzo il governo italiano allora presieduto da Silvio Berlusconi. Scrive così in un memoriale affidato ai magistrati Abu Omar, l'ex imam di Milano rapito nel febbraio 2003 in una operazione di intelligence che, secondo la procura lombarda, fu congiunta tra gli 007 americani e quelli italiani, che quantomeno, sempre secondo l'accusa, acconsentirono al sequestro di un uomo in territorio italiano, sia pur in nome della lotta al terrorismo. Questa almeno è la tesi dei sostituti procuratori Armando Spataro e Ferdinando Pomarici, che hanno chiesto e ottenuto, dopo anni di una delicatissima inchiesta, il rinvio a giudizio per 33 imputati, tra cui 26 agenti CIA e gli ex vertici del servizio segreto militare italiano. Ora dall'Egitto, lui, Abu Omar, dopo averci raccontato il suo sequestro, gli interrogatori subiti e anche le offerte sotto banco perché non facesse venire fuori il caso, chiama in causa in modo esplicito ed inedito il Ministero della Giustizia italiano. Sentiamo cosa ci ha detto. Che cosa racconta della sua liberazione? E lui, questi 5 fogli ultimali, lui ha chiesto d'aiuto del governo italiano per poter liberarlo dalle prigioni egiziane, perché le stanno trattandono male, stanno anche dando una causa per poter sequestrarlo per sempre. Lui aveva paura di questo, per cui ha chiesto un favore, un aiuto dal governo italiano per poter farlo uscire dal prigione e farlo uscire completamente dall'Egitto verso l'Italia. Anche loro hanno, il governo italiano, è stato anche lui chiamare parlare col governo egiziano per poter trattarlo in modo un po' umano, non disumano. Cioè, il governo italiano ha chiamato il governo egiziano per poter trattarlo o per poter fermare questo comportamento e trattamento disumano. Questo quando? Ultimamente lui ha chiesto. Qui il governo egiziano ha accettato, hanno fermato tutti questi comportamenti, trattamenti disumani verso di lui, ultimamente. Questo prima quindi che fosse liberato, prima che uscisse dalla prigione? Prima. Ecco, lui sa esattamente chi ha chiamato? La giustizia italiana. Ecco, lui ha più volte denunciato di aver subito torture. Ci vuole dire che tipo di torture ha subito? Lui in tutti questi 14 mesi ha sempre avuto questo trattamento disumano, ha sempre denunciato alla giustizia italiana di poter intervenire. Una intercessione di via Renula per alleggerire la sua prigionia. Questo Abu Omar, stando a quanto avete sentito dalla sua stessa voce, avrebbe scritto nero su bianco nella seconda parte del suo memoriale, in cui sostiene anche una presunta collaborazione tra le intelligence italiane e egiziana per controllare i movimenti di un altro cittadino egiziano che vive nel nostro paese, Mohamed Reda al-Badri, che insegnava e teneva sermoni nell'istituto culturale islamico del capoluogo lombardo. Gli ultimi 5 fogli del documento scritto da Abu Omar ai tempi ancora della sua detenzione nella prigionia di Altora, al Cairo, sono stati consegnati in procura a Milano dal suo avvocato proprio alla vigilia dell'inizio del processo contro gli imputati per il sequestro l'8 giugno 2007. Il mio cliente vuole tornare in Italia e vuole risarcimenti per quanto subito, ci ripete in tribunale il suo avvocato Montasser Al-Zayat, pochi minuti dopo aver enunciato in aula, insieme al suo codifensore italiano Carmelo Scambia, l'intenzione del cliente di costituirsi parte civile nel processo. Stessa decisione per il legale della moglie di Abu Omar, Antonio Nebuloni, e anche a lei sarebbero state estese restrizioni di vario tipo, così non le sarebbe stato concesso, racconta dall'Egitto Abu Omar, di tornare in Italia. Sua moglie per l'Italia. L'hanno rifiutato, sai questo? L'hanno fermata le autorità aeroportuali ad Alessandria, giusto? Sì, per motivo non si sa. Chiedono risarcimenti milionari allo Stato italiano, Abu Omar e moglie, ma per vedere come il processo andrà avanti bisognerà aspettare, dicevamo, la ripresa ad ottobre, in attesa della pronuncia della consulta sul conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sollevato per due volte da Palazzo Chigi. La procura risponde con un controricorso parlando di premier ambiguo e già in chiusura del suo memoriale l'ex imam si rivolgeva direttamente al governo italiano formulando 5 richieste, la prima delle quali proprio un intervento per la scarcerazione e la fine delle torture, esaudito a quanto abbiamo sentito poco fa da lui. L'ex imam chiede anche un aiuto per uscire dall'Egitto, perché la mia permanenza qui, si legge, significa la morte anche a distanza di tempo. Sollecita inoltre attenzione costante sul suo caso e chiede esplicitamente un aiuto economico e sanitario anche per lo stato in cui è stata ridotta la mia famiglia, scrive. Quindi, per ultimo, sollecita il mantenimento dello status di rifugiato politico. Cronaca e opinione, testimonianza e lettura politica si intersecano continuamente nelle parole di Abu Omar, che anche attraverso il telefono arrivano cariche di veemenza. Così, a suo dire, la sua condizione di ex detenuto nelle celle egiziane sarebbe cambiata con l'avvento a Palazzo Chigi un anno fa di un esecutivo di centro-sinistra. Lui si ricorda bene quando il governo di Berlusconi è stato cambiato e l'hanno trattato diversamente. Prima non riceve nessuno, non può chiamare nessuno, non può ricevere nessuno, non può uscire dalla sua stalla. Poi quando è venuto il governo è stato cambiato completamente il comportamento lì in Egitto. Sotto queste cose qua non deve parlare con nessuno. Non deve aumentare le cose, le denunce, specialmente la moglie, non deve andare a parlare in giro con i giornalisti, con il televisore, così se tu comportati bene così noi possiamo trattarti in modo diverso. E lui riceve anche amici, riceve anche la moglie. Così parla Abu Omar, l'imam che un giorno un servizio segreto ha fatto sparire dal centro di Milano, così come è successo anche ad altri detenuti di alto livello incarcerati nelle prigioni segrete della CIA in Polonia e Romania tra il 2002 e il 2007, secondo Dick Marty, relatore all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa sulla vicenda. Sulla base di un incontro incrociato, a suo dire, di oltre 30 testimonianze raccolte nei servizi di intelligence americana e europea, denuncia un accordo segreto tra gli alleati della NATO nell'ottobre 2001. Un accordo che avrebbe fornito il quadro di base per tali e altre attività illegali della CIA in Europa. Ma le leggi sono leggi e operazioni del genere non sono lecite, ricorda uno dei magistrati milanesi, Ferdinando Pomarici, che legge soprattutto in una chiave di rispetto del diritto tutto il caso. È importante soprattutto per i principi di base che sono al fondo del procedimento, cioè quali mezzi siano leciti per porre in essere un'attività di contrasto alle forme di terrorismo, e se e quale sia il limite oltre il quale non ci si possa spingere.